Now boarding. Now boarding. Welcome to the radio connection. Siamo at the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te at the drive. Radio Sandona 102 200 sul web www.radiosandona.it. Benvenuti alla prima puntata di Now Boarding, programma dedicato agli italiani all'estero, ovvero un itinerario puntate che ci porterà in diversi luoghi del mondo a raccontarci assolutamente bene, il tutto viene confezionato da Radio Sandona e da Bandiera Gialla. In studio il sottoscritto, cioè Francesco, ciao. E di macchina. E di macchina. Bene, assolutamente. Sì. Allora, oggi andiamo a Radio Sandona, la nostra prima meta, e in particolare siamo con Stefano. Certo che ci sono, ciao. Stefano, ci sei? Certo che ci sono, ciao. Ciao Stefano, Stefano, ci sei? Certo che ci sono, ciao. E tu, quando ti sei trasferito, cosa fai a Berlino fondamentalmente? Certo che ci sono, ciao. Assolutamente. Sono meno di un anno che sono qui e non so perché ci sono venuto, probabilmente seguendo l'Italia. La prima volta che sono venuto qui è stato per una vacanza 3 anni fa e la città mi fa schifo, comunque. Okay. Sono quelle cose che succedono. E non ci sei andato perché c'era tua nonna? No, mi ha accolto bene con il caldo, con il sole, perché a giugno che si è trasferita. Ah, ok, prima era a Berlino, quindi. Sì, mi sta mancando e credo che poi anche le scelte musicali di oggi ne risentano. Sì, hai introdotto un altro argomento interessante, che noi cogliamo questa palla al volo per spiegare un po' il programma. Beh, intanto forse non abbiamo detto che tu ci sei collegato con noi dal loro soggiorno a comunicare. Altre puntate invece avranno degli ospiti qui in studio che sono rientrati dal loro soggiorno. E poi l'altro elemento importante è la scelta dei brani, cioè noi chiediamo a voi, dateci insomma una scaletta, brani che non necessariamente siano di artisti dal loro soggiorno, che vi ricordino insomma qualcosa della loro esperienza, no? E tu ci hai detto, beh, iniziamo con Foster the People, giusto? Los Angeles, California. E non lo so, io direi di ascoltarla, no? No, prima, certo. Prima dici perché l'hai scelto, però. Al di là dell'interesse per il gruppo, ti ricorda qualcosa? Los Angeles, California. Che romanticone. Lorenzo, gli abbiamo strappato la nostalgia. Mamma mia. Ce l'abbiamo fatta. Hai visto? Los Angeles, California. Stefano, vai e vieni, la tua voce. Questa cosa. Los Angeles, California. Stefano, ci sei? Si faccia una domanda, si dia una risposta. Quanto conta essere a Berlino?